Ritroviamo Fabrizio Ferraro, regista del film Gli Indesiderati d'Europa, in uscita in sala il prossimo 24 aprile. Fabrizio, ben trovato. Allora, lo descrivi brevemente? Attraversa un sentiero che passa tra la Francia e la Spagna, che anche se attraverso i Pirenei varca il confine, e questo sentiero è stato abbastanza protagonista nella storia dell'Europa perché nel 1939 veniva utilizzato dalla ritirata dai rifugiati della Repubblica Civile Spagnola che scappano da Franco e poi appena 18 mesi, nel senso inverso, viene percorso anche da Walter Benjamin per scappare dalla persecuzione nazista e cercare di raggiungere gli Stati Uniti. Quindi una via di fuga in Europa. Sì, un momento, un sentiero che attraversa proprio, possiamo dire, l'Europa, nel senso proprio più vero, in cui cerca di rompere quelli che sono poi i confini prestabiliti, costruiti artificiosamente, in cui l'Europa si era trovata in una mobilità che comunque poteva produrre delle speranze che poi non sono mai state accolte perché i rifugiati, diciamo, nella ritirata spagnola, praticamente l'accoglienza della Francia non è molto lontana da quella attuale, perché vennero messi in dei campi di accoglienza, ma in realtà dei veri e propri campi di prigionia, dei lager, in cui in alcuni addirittura, dove un campo che è presente anche nel film, ad Argelès-sur-Mer, che sono stati messi sulla spiaggia senza nessun tipo di servizio, abbandonati al freddo e ad una condizione poi difficile da sostenere, senza acqua potabile e quant'altro. Diciamo, nella violenza subita da chi cerca comunque di produrre una mobilità diversa, abbiamo le stesse risposte. Fabrizio, come viene fuori il progetto? Il progetto fa parte di tassello in più, un capitolo in più, in rapporto agli altri film, a cercare di appunto percorrere dei momenti importanti sia per la visione sia per la storia nostra che per la storia europea. In questo poi c'è sempre il tentativo che cerchiamo di fare con tutto il gruppo di mantenere un cinema che guardi al cinema, quindi che guardi ad un'immagine grande, che non sia invece un corollario di commenti, di puro testo, che non faccia come accade in questo molto spesso al cinema, purtroppo della sociologia abbastanza superficiale, abbastanza volgare degli accadimenti e del costume attuale, cercare invece di aprire altre possibilità anche per chi guarda e altre relazioni con l'immagine e con l'immaginario. Senti, parlavi di gruppo, ci parli un po' di questa esperienza? Sì, tutti i film che facciamo, come al solito, come dovrebbero essere, sono anche dei pretesti per comunque ritrovare modalità, relazioni differenti, scoprire luoghi. E in questo, se non c'è un cinema, non è mai una cosa personale, anche poi gli autori, il narcisismo degli autori cerca invece di conquistare e dare proprietà. Il cinema sfugge sempre, come tutte le opere, all'autore, si costruiscono in gruppo. Noi abbiamo una cooperativa con cui produco tutti i film, con cui le elaboriamo, un gruppo. Qui a Roma ha collaborato con lo scenografo e costumista in Spagna, che è Sebastian Böckler, che poi è lo scenografo e costumista anche degli altri film di Albert Serra. Quindi abbiamo intrecciato relazioni, sempre con Marcello Fagiani, che produce film, con la cooperativa Passepartout. Ma queste cose possono fare solo in gruppo e sono sempre fatte in gruppo. Il problema è che molte volte sono gruppi abbastanza gerarchici, quindi dati dalle produzioni che non permettono invece di respirare questa altra possibilità di stare insieme. Senti, Gli Indesiderati d'Europa fa venire in mente quello che poi negli anni, nei decenni successivi, si è costituito come blocco, che poi si è definito come, e viene definito come Fortezza Europa. Sì, io penso che questa cosa degli indesiderati è una condizione anche in Europa, ma anche in un semplice condominio comunque, ha a che fare con esercizio e coercizione di potere, con dei dogmi anche, e la condizione però in realtà più viva, più vera, che non fa altro che sabotare quelli che sono dei luoghi comuni abbastanza inquietanti, che ogni epoca ne ha i suoi, anche se poi noi siamo bravi a pensare che le epoche passate erano disumane, che il nazismo è stato qualcosa di incredibile, il fascismo, come se le persone che poi attraversassero quel periodo storico non fossero uguali a quelle che attraversano nell'essenza, uguali a quelle che attraversano questo attuale. Quindi, e quando uno è convinto invece di vivere il proprio tempo nelle sue convenzioni, non si accorge che poi produce gli stessi meccanismi per poi essere giudicati da generazioni poi future, anch'esse come condizioni disumane, e di questo si ricorderà anche di questa nostra epoca, quindi non molto lontana da quello che è accaduto. E questa condizione poi ci permette però di aprire altro, cioè di aprire un po' e sfondare in questi muri di luoghi comuni. Noi siamo anche noi indesiderati nel mondo del cinema ufficiale, per fortuna prossimo è anche tanto altro, oltre i jet set, i tappeti rossi, e anche Benjamin è stato un indesiderato, nella sua adesso viene riconosciuto come forse più importante filosofo del Novecento, ma è stato un filosofo abbastanza massacrato, non riconosciuto, distrutto dalle accademie, che ha avuto problemi economici a vivere e che adesso, solo adesso, viene riconosciuto. Però poi i contemporanei fanno lo stesso con i propri contemporanei, perché poi quelli che usano altri Benjamin non fanno altro che, soprattutto con chi cerca di rompere alcune cose, lo stesso riconoscimento che ha avuto con in vita Walter Benjamin. È una storia abbastanza antica questa, siamo pieni, diciamo. Sì. Senti, a partire da questo progetto, rispetto ai confini, rispetto all'Europa, rispetto a persone e personalità, come hai deciso di costruire narrativamente il lavoro? Io penso che la cosa più interessante è quando si costruisce appunto partendo dai luoghi, dalle cose, dalle persone, mai da un'idea artificiosa che sta in testa, che l'autore pensa che sia così ricca da trasformare il mondo a seconda delle proprie idee. C'è un confronto, un'attenzione continua, quindi da sopralluoghi lunghi, importanti, lassù i Pirenei, che hanno costituito poi la densità del film. Anche se poi lì si costituisce un'altra comunità con le persone che vivono quel luogo. Infatti il film è diciamo, c'è un omaggio nel film dedicato a un cineasta dei più importanti che doveva partecipare al film, ma poi non ha potuto, che è Hans Jürgen Siberberg, anch'esso indesiderato, ma protagonista di un dei film più importanti dell'Occidente, che è Hitler, un film della Germania, e poi invece di un vignaiuolo lì del luogo che ci ha messo in condizione anno dopo anno di conoscere meglio quel territorio, che è pieno tra l'altro di vignaiuoli che fanno vino naturale e cercano un po' di allontanarsi dal dogma della chimica. Però vedi poi come le situazioni, abbiamo visto che negli anni 60, 70, a partire da quelli 50 si andava campagna a dire ai contadini siete dei zotici ignoranti, dovete utilizzare la chimica perché così avrete dei risultati. E quella era la verità di quel periodo storico, no? E quindi chi invece si rifiutava era considerato fuori dal tempo e un villano. Mentre adesso si è capovolto, poi le cose ritornano sempre a galla. E lì è una zona di grande resistenza, diciamo su questo versante. C'è tanto vino e c'è un gruppo molto importante che fa questo. Fabrizio, che uscita sarà? Guarda, adesso so che il 24 ci sarà un'anteprima, invece che farla nelle grandi città è stato scelto di farla a Bardonecchia, appunto per questi motivi, appunto perché lì parte dei sentieri e si respira un po' quello che si respira nel film anche sui Pirenei. E per poi il 25 a Milano, penso in cartellone, poi anche a Roma, a Perugia, le Marche, Genova, poi non so, un po' le varie città. Noi faremo un po' un giro, un mini tour tra Milano, Roma, Perugia, Napoli, non mi ricordo. Comunque, Sì. piano piano acquisterà la sua strada, e come giusto che sia, perché ovviamente la distribuzione è un po' sofferente in Italia e un po' se ne risente, anche perché poi ci sono gli esercenti. Anzi, le grandi catene di distribuzione che pensano che certi film non sono fatti per il pubblico, però questa poi è una cosa, anche questa verrà superata dagli eventi. Per esempio, una cosa che mi piace dire, perché in Germania una delle istituzioni culturali più importanti della Germania, che è il Teatro Volksbühne di Berlino, ha deciso di proiettare il film come prima tedesca. Non nella sala cinema, ma nella sala grande, un sabato sera c'è, cioè in una sala da 900 posti, nel teatro più importante della Germania. Quindi mi sembra che non è una scelta che si pone un problema del pubblico, anzi tutt'altro, la fiducia. Quindi anche queste verità che sono abbastanza presenti qua in Italia, in cui certi film devono andare forse a una saletta da 30, 40 posti, 50 posti, un po' lasciano il tempo che trovano, diciamo. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? So che il programmatore hanno fatto la pagina Facebook, là, gli Indesiderati d'Europa, poi c'è un sito, gli Indesiderati d'Europa, che è tutto attaccato, e lì penso ci saranno tutte le varie informazioni. Tra l'altro poi mi piace dirlo, sono molto contento, so che è uscito un libro che Valerio Carando, che è un critico che sta in Spagna, che però collabora con Segno Cinema, Curio Umana, Cineforum e altre. Poi anche quotidiani spagnoli, sul set, ha seguito il film con noi, ha scritto un libro che è edito da Deriva Prodi, che si può trovare adesso, che si chiama Gli Indesiderati, un po' c'è un diario di riflessione su tutta la lavorazione del film, una Bene. prefazione di Silvestri che mi è piaciuta molto. Allora, io ti ringrazio. Ricordiamo l'uscita in sala del film Gli Indesiderati d'Europa a partire dal 24 aprile per la regia di Fabrizio Ferraro. Fabrizio, io ti ringrazio. Un abbraccio, a risentirci presto. Ok, grazie a te, buon proseguimento, un abbraccio, ciao!